anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, ma anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Siamo qui, sono le 7:19 minuti, è lo spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino, la lettura dei giornali. Siamo con Lorenzo Nespoli in redazione come sempre e Peter Bescapè in regia, poi arriva anche Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Oscar Giannino, andiamo a comandare. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a martedì 6 giugno, intanto i titoli, le aperture, il Sole 24 Ore apre sull'Ilva venduta a AM Invest Co. Firmato il decreto che assegna il gruppo alla cordata ArcelorMittal e Marcegaglia con Intesa San Paolo. Le aperture poi degli altri quotidiani, c'è chi sceglie la questione Riina per il Corriere della Sera, ipotesi di scarcerazione per Riina malato, accuse e proteste. Mentre ovviamente c'è anche il tema politico, voto a settembre, pressing dei partiti all'apertura di Repubblica. Anche il Fatto Quotidiano apre su Riina, morire con dignità. Mentre la questione Torino tiene banco. La Stampa, Torino, il piano d'emergenza fantasma, Appendino, si difende, rispettate le regole. Minniti, in quella piazza qualcosa non ha funzionato. Per il Giorno il titolo è Disordine pubblico. Anche Avvenire, il risico del terrore. Qatar isolato dai paesi del Golfo, è complice. Torna sulla questione Appendino anche Libero, Appendino sindaco peggiore della Raggi. Mentre La Verità apre sul terrorismo internazionale, tutti i rapporti di Renzi e del PD con il paese che finanzia l'ISIS e dunque il Qatar. Il Messaggero torna sulla questione Riina, scontro sulla scarcerazione. Mentre Mai dire mai, invece che Mai dire mai, è il titolo del Manifesto sulle elezioni inglesi e quello che sta succedendo dopo l'attentato di Londra. Io però voglio partire proprio da Torino, dove è in scena il classico scaricabarile all'italiana, che poi vuol dire un po' colpa tua, un po' colpa mia, un po' colpa vostra, un po' colpa di nessuno, quindi. Tra comune, prefettura e questura, questi sono i tre, le tre istituzioni che si stanno in qualche momento, in qualche modo anche fronteggiando per cercare di capire la catena di responsabilità di quello che è successo. Leggo dalla cronaca di pagina 8 del Corriere della Sera. Appendino si difende ora stretta sugli eventi. La procura, scrive il Corriere a pagina 8, vuole chiarire rapidamente le cause e trovare i responsabili dei 20 minuti di follia di sabato sera in piazza San Carlo. Si cerca di individuare chi ha creato le condizioni perché esplodesse il panico tra la folla, e se da un lato la Digos prosegue gli interrogatori di persone identificate attraverso le telecamere, dall'altro i magistrati hanno aperto un secondo filone d'indagine che va ad aggiungersi alla prima inchiesta. Il procuratore Armando Spataro ha confermato che non risulta ancora individuato l'evento che ha determinato il panico, ma stiamo acquisendo documentazione amministrativa di qualsiasi genere. In corso di verifica le misure di sicurezza e prevenzione, anche con riferimento alle modalità di accesso alla piazza ed eventuali omissioni. Anche il ministro dell'Interno Minniti ha dichiarato: è evidente che qualcosa non ha funzionato. Ora cosa succede? È in arrivo un giro di vite sui venditori abusivi, annunciarlo al sindaco Chiara Appendino, che ha fatto il punto di quanto accaduto in consiglio comunale, ipotizzando di autorizzare le manifestazioni a rischio solo in sede di comitato provinciale per la sicurezza. E sempre Chiara Appendino, intervenendo in consiglio comunale, come racconta Paolo Griseri, siamo su Repubblica, in qualche modo ha suggerito che il mancato controllo della piazza è responsabilità del questore. Erano impiegate per i controlli di sicurezza le forze di polizia, a un certo punto, ha detto il sindaco Chiara Appendino, come dire, il questore. Ecco, il questore. Pagina 3 del Giorno. Il Giorno se la prende un po' con il questore. Sanna, che ha dichiarato, tra le altre cose, questo, titolo di pagina 3 del giorno. La difesa impossibile del questore. Vietare i vetri è incostituzionale. Ma cioè, perché ci si chiede come mai ci fossero così tante bottiglie, cocci di bottiglia per la piazza, che hanno causato, tra l'altro, cocci di bottiglia che hanno causato moltissime ferite. 30.000 persone chiuse in una pentola a pressione che non sfiata, costrette a scappare scalze su pezzi di vetro, per un totale catastrofico di più di 1.500 feriti. La responsabilità di ammettere, sì, abbiamo fatto una cavolata, nessuno se la prende volentieri. Leggo dall'articolo di Viviana Ponchia a pagina 3 del giorno. E così la notte in cui il panico ha fatto scoppiare il cuore di Torino diventa il giorno delle polemiche e dei rimpalli. Al questore Angelo Sanna viene posta la più ovvia delle domande: ma non esisteva un'ordinanza che vietava il possesso di vetro e metallo in luoghi pubblici durante le grandi manifestazioni? La risposta: quell'ordinanza era stata dichiarata incostituzionale, non valida. E qui la ragione slitta. Non è permesso aggirarsi con minerali di plastica, però va bene arraffare una birra in bottiglia dal primo abusivo che passa? Pare di sì. Non è logico, ma d'altra parte i fatti di Piazza San Carlo, in cui sabato sera la finale di Champions su maxi schermo si è trasformata in fuga dall'inferno, di logico hanno pochissimo. Non è morto nessuno e sarà questo a rasserenare chi doveva garantire la serenità. Il questore insiste sulla linea del dovere compiuto. Abbiamo fatto più di quello che è stato fatto in eventi analoghi, compresa la partita Juve-Barcellona di un mese e mezzo fa. Adesso stiamo rielaborando la situazione. La vera urgenza, dice Sanna, è lavorare sul motivo che ha causato la tragedia, ma poi rettifica: definiamo la tragedia perché il numero dei feriti è alto, però incrociando le dita ancora non abbiamo avuto qualcosa di brutto. Ecco, un po' la sensazione è questa, l'idea all'italiana che dai, è andata bene stavolta. Non ci sono morti, ci sono dei feriti anche gravi, ma è andata bene. Poteva andare peggio. Come racconta pagina 3 della Stampa, tra l'altro oggi abbiamo ospite il direttore della Stampa Maurizio Molinari alle 8:15, non c'era un piano di emergenza, è stata ignorata la circolare di Gabrielli, cioè il capo della polizia. Leggo da pagina 3 della Stampa Lodovico Poletto: subito dopo l'attentato di Manchester, il capo della polizia Gabrielli aveva dettato con una circolare le linee guida da adottare in occasione dei grandi eventi. Verifiche preliminari, specialmente nei luoghi dove possono essere celate insidie. Controlli degli accessi, valutando l'adozione di impedimenti anche fisici all'accesso di veicoli nelle aree pedonali. Presenza di steward degli organizzatori, come per gli eventi sportivi. Ebbene, di tutto questo ci si chiede: ma a Torino è stato fatto il possibile? È tutto ciò che Gabrielli aveva imposto e suggerito? Se l'allerta attacchi ha fatto innalzare il livello dei controlli, c'erano in piazza 200 tra poliziotti e carabinieri e più 100 e di più vigili, ciò che è mancato in toto è un piano per l'emergenza, cioè una strategia per i soccorsi in una piazza che potenzialmente può contenere 30.000 persone. E questo era compito degli organizzatori, anche con gli steward che non c'erano, come non c'era un punto di raccolta feriti, uno per le persone disperse o spaventate, un centro di coordinamento interforze, tutte cose che nella notte della finale non si sono viste. Ma vabbè, tra l'altro in tutto questo, ma io l'avevo, ecco, non l'ho detto, adesso sembra quello, sì, parla lui dopo. Ma il famoso ragazzo a torso nudo che viene ripreso dalle telecamere e tutti a dire: guardate, è la posa da kamikaze. Ma chi è che ha mai visto una posa da kamikaze? Voi conoscete una posa da kamikaze? Cioè, io so, una posa da kamikaze, se uno non l'ha mai immortalato poco prima che si faccia saltare in aria, qual è la posa da kamikaze? Effettivamente, questo ragazzo con le braccia allargate, a me, da subito, ma lo dico adesso, lo so, mi spiace, è sembrato dire, magari in maniera un po' sbagliata in quel caso: ma attenzione, ma fermi, ma non è dove correte, non è successo nulla, tra l'altro a torso nudo. E infatti ora è stato individuato, è un ragazzo di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, e dice: dipinto come un mostro, volevo solo calmare la folla. Tra l'altro dice: non sono indagato, non ho sollevato le braccia per cercare di calmare tutti, volevo far capire che non c'era alcun pericolo, che bisognava star tranquilli, ma hanno fatto di me un capro espiatorio, immagini mostrate in TV, sui siti, tutto mi si è ritorto contro. Si chiama Davide Buraschi, ha 23 anni, fa il magazziniere. È lui, il giovane torso nudo con lo zainetto in spalla, le mani alzate, ripreso da decine di telecamere. Domenica è tornata a casa coi genitori, la fidanzata vorrebbe buttarsi tutta alle spalle, ha chiuso i profili social per paura di essere minacciato, per sfuggire ai linciaggi su internet. E dice: mi hanno tenuto in questura per ore, ho spiegato tutto quello che avevo visto, ho fatto, è stato terribile. I media mi hanno dipinto come un mostro, un sobillatore, hanno scaricato su di me la colpa di quei 1500 feriti. E lui dice: nonostante lo shock, ha ricostruito quegli istanti di panico. Eravamo sul 3-1, la delusione era tanta. A un certo punto ho sentito un forte odore, forse uno spray al peperoncino spruzzato incautamente, forse una fiala puzzolente di quelle che si usano per gli scherzi di carnevale. So solo che intorno a me si è creato il vuoto e io sono rimasto lì, al centro, isolato. E ho alzato le braccia, invitavo alla calma, ho soccorso le persone che stavano male. La mia fidanzata ha avuto un attacco d'asma per quell'odore nauseabondo, ero preoccupato per lei. E poi sono stato dipinto come un kamikaze, per l'appunto, o uno con la posa da kamikaze. Attimi di davvero impazzimento generale, che certo non rassicurano per future manifestazioni. Ma siamo, prima di andare in pubblicità e trattare comunque l'argomento terrorismo sul fronte internazionale, all'articolo che mi fa pinzore della giornata. Rimango su Repubblica, leggete tutti pagina 19, soprattutto quelli che sono correntisti di Veneto Banca. Lo scandalo Veneto Banca, lo shopping dei vertici per l'arte a prezzi gonfiati. Ebbene, si scopre, e lo dicono i risparmiatori, è uno sperpero vergognoso, che a Veneto Banca hanno speso 14 milioni di euro per comprare 462 pezzi tra quadri e comò d'autore. Su queste spese indaga la Procura di Roma. Scrive Giampaolo Visetti a pagina 19 di Repubblica: Amore Psiche, gesso di Antonio Canova, studio per il capolavoro in marmo oggi al Louvre, prezzo pagato 575.000 euro. La quotazione era 41.000 euro. Differenza 534.000 euro. Soldi buttati dalla banca, ossia dai clienti. Una domanda affligge i 205.000 veneti che si erano affidati a Veneto Banca e Popolare di Vicenza a un passo dal fallimento. I manager travolti erano solo inadeguati alle responsabilità finanziarie oppure erano degli inetti totali? Il sospetto, mentre governo e Unione Europea tentano il salvataggio delle banche, esplode dopo la rivelazione di un nuovo filone d'inchiesta della Procura di Roma. Lo scandalo di Crostopoli, così è definita, che investe il tesoro che i vertici hanno investito in opere d'arte. Oltre 14 milioni di euro, 462 pezzi regolarmente inventariati, seppure molti risultano nel frattempo spariti. Peccato che, secondo esperti, il valore sia stato gonfiato in media del 70-80%, con verbali dei CDA che rinunciano perfino a stime, dando il via libera all'acquisto di specchiere veneziane del Settecento dai costi da 400.000 euro più 6.500 di restauro. Il valore di mercato era 40.000 euro. Operazione definita un'interessante opportunità di investimento dal CDA della banca, cifre da brividi che stanno scatenando la rivolta dei risparmiatori. Eccola qua, lo scandalo Crostopoli, lo scandalo Veneto Banca con lo shopping per l'arte a prezzi gonfiati. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo! Bentornato Alessandro Milan, il prelato che legge i giornali religiosamente. Va bene, alle 7:38 minuti siamo qui allora a leggere gli articoli sul terrorismo internazionale, Londra. Allora, intanto colpisce molto, è stato individuato sono stati individuati tutti e tre i terroristi che hanno colpito a Londra nei giorni scorsi. Uno di questi, siamo alle solite, era ben conosciuto dalla polizia. L'avevamo già detto ieri, c'era una denuncia tra l'altro di una cittadina italiana vicina di casa. Ora si scopre di più. Khurram Shahzad Butt, 27 anni, pakistano, un paio d'anni fa era anche finito su Channel 4 in uno speciale sui fondamentalisti della porta accanto perché, e tra l'altro le immagini circolano da mesi su YouTube, l'aspirante martire si mette in posa con due predicatori talmente noti alla polizia che a un certo punto compaiono alcuni agenti in questo video e parte una discussione su una bandiera dell'ISIS che viene srotolata da questi terroristi, uno soprattutto. Arrestato? No. Tenuto d'occhio? Dal 2015 era in una lista di 500 sospettati, ma non era considerato pericoloso. Eccolo qua. Allora io faccio questa proposta, visto che Theresa May dice quando è troppo, quelli che sono ripresi, guardate, io l'ho messa la foto su Twitter, sul mio profilo Alino Milan, quelli che sono ripresi in quel video, e tra questi c'è appunto uno degli attentatori di Londra, non possono essere gentilmente presi e accompagnati nel più vicino carcere perché siamo più tranquilli così? O questa è una violazione delle regole, delle leggi, delle, no? Hanno srotolato una bandiera dell'ISIS facendo proclami inneggianti all'ISIS, come racconta Francesco Battistini sul Corriere della Sera a pagina 6. In questo video lui si faceva riprendere mentre srotolava la bandiera e esortava alla lapidazione dei gay, degli adulteri e dei venditori d'alcol. Possiamo appiccicare un qualsiasi reato a questo tipo di dichiarazioni e metterle in carcere queste persone invece di dire useremo il pugno duro? E poi si legge sui giornali che una delle cose a cui sta pensando Theresa May è abolire il burka. Chissà che grande mossa, abolire il burka. Non mi sembra una situazione a pugno duro, mi sembra una questione di moda, abolire il burka. Comunque, insomma, sì, sono un po' polemico oggi, ma così predicavano gli attentatori, ma la polizia ignorò indizi e soffiate. Risultato, l'attentato. Anche il Messaggero, il capo dei jihadisti, era apparso in TV con la bandiera dell'ISIS. Era noto alla polizia. Titolo del Messaggero, pagina 6, Cristina Marconi, che ieri era nostra ospite. E va bene così. In tutto questo c'è una notizia che proviene dal mondo arabo che certamente cambia anche a livello internazionale tutti gli assetti. Il mondo arabo rompe con il Qatar. Leggete Roberto Bongiorno oggi pagina 5 del Sole 24 Ore. Arabia, Emirati, Egitto, Bahrain tagliano i rapporti con il Qatar dicendo Doha sostiene gli estremisti. La motivazione, come scrive Roberto Bongiorno, è questa. Secondo Riyadh, dunque secondo l'Arabia Saudita e i suoi alleati, il Qatar fomenta il terrorismo nei paesi confinanti, tra cui l'ISIS, e nello Yemen, e interferirebbe negli affari interni del Bahrain. Il Qatar inoltre è accusato di sostenere gruppi terroristici appoggiati dall'Iran nella regione saudita orientale del Qatif e in Bahrain. Per questo il governo del Regno dell'Arabia Saudita, si legge in una nota di agenzia di stampa ufficiale di Riyadh, esercitando i suoi diritti sovrani garantiti dal diritto internazionale e proteggendo la sicurezza nazionale da pericoli del terrorismo e estremismo, ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche e consolari con lo Stato del Qatar. La situazione è molto seria. E tra l'altro Gianni Calessin sul giornale a pagina 8 racconta che tutto ciò, cioè i finanziamenti del Qatar ad Al-Qaeda, ad Al-Nusra, ad Hamas, all'ISIS, erano noti. Ci sono vari rapporti degli agenti segreti americani che raccontano di Qatar come fiancheggiatore degli estremisti da 25 anni. È lo stesso Qatar che, attraverso ovviamente delle fondazioni di altro tipo, sta facendo da un po' di anni un po' di shopping in Italia. Che dite? Perché i soldi, quelli vanno bene. Alberghi, spiagge, grattacieli, ecco come fa shopping in Italia il piccolo, ricchissimo emirato. Leggete Mario Gerevini, pagina 11 del Corriere della Sera. La sceicca e il marito sono innamoratissimi dell'Italia, disse l'allora presidente Giorgio Napolitano durante una visita di Stato in Qatar. Sono passati 10 anni. Gli innamorati dell'Italia si dividono in 2 categorie. La prima, quelli che acquistano il biglietto aereo, magari low cost, prenotano la stanza d'albergo, magari su Booking, infilano jeans e magliette in valigia e partono sognando un ombrellone e una spiaggia. La seconda categoria del Qatar, quelli che acquistano la compagnia aerea, comprano gli alberghi, tutta la Maison Valentino, e già che ci sono 2300 ettari di terreno e spiagge immacolate in Costa Smeralda. La differenza la fa il conto in banca, che altrettanto ovviamente il sovrano di uno dei paesi più ricchi del mondo non ha, perché possiede direttamente le banche. Tamim bin Hamad Al Thani, 37 anni appena compiuti, è salito al trono del giugno 2013 dopo l'abdicazione del padre. Sarà per amore dell'Italia o degli affari, ma anche lui ha seguito la rotta dei genitori innamoratissimi, anzi con maggior impulso, mettendo in campo holding, fondazioni, strutture statali, tra cui spicca il fondo sovrano Qatar Investment Authority con oltre 300 miliardi di dollari di asset, alberghi, la Maison Valentino, la passione per gli alberghi è rigorosamente 5 stelle. A Venezia il Gritti Palace, a Roma il San Regis Excelsior, a Firenze il Baglione e il Four Seasons, oltre ai 4 compresi nel pacchetto Costa Smeralda. A Doha volevano comprare anche il San Domenico Palace di Taormina, se non che all'asta ha vinto poi l'immobiliarista Giuseppe Statuto. Ma comunque questo, da Milano alla Sardegna, è l'impero economico della dinastia Al Thani, Qatar, quello stesso Qatar che compra in Italia, compra moltissimo, e che dai paesi arabi viene definito collaboratore del terrorismo. A proposito di terrorismo, e qui ripartiamo, tra poco c'è la questione Totò Riina, che secondo una sentenza, perché in Italia si fa tutto per sentenze, ha diritto a una morte dignitosa, il che vuol dire aprire alla possibilità che esca dal carcere. I parenti delle vittime, ma anche il procuratore antimafia Roberti, dice: attenzione, sarebbe un grave errore. Dopo il traffico! Din dun dan, din dun daren non do. Dialetto cameranese. Camerano esiste ed è in provincia di Ancona. Ah, evviva. Viva Camerano. Viva tutta Camerano, l'abbracciamo. Allora, la vicenda Totò Riina. La vicenda è questa. La Cassazione, come racconta Giovanni Bianconi a pagina 2 del Corriere della Sera, ha definito Riina un detenuto anziano e malato, forse in procinto di lasciare questa terra per cause naturali che non hanno nulla a che fare con il carcere di massima sicurezza, e comunque un detenuto in queste condizioni ha il diritto di morire dignitosamente, anche se si chiama Totò Riina, che poi, per sostenere che ancora il pericoloso capomafia che fu, nonostante letale condizione di salute, bisogna avere qualche prova recente della sua capacità di comandare. Non basta ribadire che è il capo di Cosa Nostra come fosse una realtà immutabile dopo 24 anni di galera. Con queste motivazioni la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto l'istanza del paradino corleonese e ordinato al Tribunale di Sorveglianza di Bologna di motivare meglio la negazione del differimento della pena, dunque l'uscita di prigione. E una decisione che era stata fondata su principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, ma che suscita scalpore per il nome del detenuto, perché è innegabile, Totò Riina, no, capite? E Franco Roberti, procuratore antimafia e antiterrorismo, viene intervistato da Fiorenza Sarzanini e dice: è un errore, lui deve rimanere al 41 bis. Totò Riina deve continuare a stare in carcere, deve rimanere in regime di 41 bis. Proprio perché, dice Roberti a Fiorenza Sarzanini, siamo perfettamente in grado di dimostrare l'attualità del pericolo. Abbiamo elementi per smentire la tesi che non sia più il capo di Cosa Nostra e per ribadire che Totò Riina è ancora il capo della mafia. Sono circostanze nuove, chiede il Corriere. Beh, le indagini sono in corso e non ho nulla da dire, risponde Roberti. Né potrei farlo, ma vorrei ricordare che il pubblico ministero Nino Di Matteo vive blindato proprio a causa delle minacce che Totò Riina ha lanciato dal carcere. Se non è un pericolo attuale questo, mi chiedo che altro dovrebbe esserci. Posso comunque assicurare che su questo punto saremo in grado di fornire motivazioni più stringenti proprio come ci viene chiesto. Quindi, essendo una sentenza di annullamento con rinvio, Franco Roberti tranquillizza anche tutti i familiari delle vittime, che rilasciano varie interviste ai giornali dicendo: saremo in grado di dimostrare nella nuova richiesta che ci farà il Tribunale di Bologna che ci sono nuovi elementi per far capire che Totò Riina è ancora il capo di Cosa Nostra e dunque deve rimanere lì. Certo, una morte dignitosa tutti ne hanno diritto, ma in carcere, questo fa sapere Franco Roberti, non fuori dal carcere. Lasciamo il caso Riina, c'è il caso Ilva, più che un caso è una notizia. Matteo Meneghello racconta sul Sole 24 Ore, siamo a pagina 3 ed è l'apertura del Sole, che il governo ha assegnato l'Ilva alla cordata AM Investco. È stato firmato il decreto che decide l'aggiudicazione. Nei prossimi mesi ci sarà il passaggio definitivo di proprietà. AM Investco Italy, joint venture formata da ArcelorMittal, che detiene una quota dell'85%, e Gruppo Marcegaglia, che detiene la restante quota del 15%, parte della quale verrà rilevata ora da Intesa San Paolo, si aggiudica la gara per gli asset dell'Ilva in amministrazione straordinaria. La conferma del Ministero dello Sviluppo Economico, che ieri ha firmato il decreto che ufficializza formalmente la scelta del governo. La procedura incasserà dall'operazione 1,8 miliardi di euro, il canone d'affitto è di 180 milioni. AM ha presentato un piano che in estrema sintesi prevede una produzione di un massimo di 8 milioni di tonnellate nel 2024 con un aumento delle spedizioni grazie all'utilizzo di semi lavorati e ricavi per 4 miliardi a regime. Comunque tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore. C'è il ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda, che viene intervistato da Repubblica da Roberto Mania, e dice: nessun dipendente verrà licenziato e a Taranto arriveranno 2,4 miliardi dai privati. In sintesi, dice Calenda, è il piano migliore per salvare l'occupazione. E questa è la posizione di Calenda. Va bene, lasciamo l'economia, la politica ancora legge elettorale, ci sono tutti i dettagli di questo accordo che fa un passo avanti ogni giorno e sono nominati 2/3 dei parlamentari, questo è il titolo del Sole 24 Ore, sono tutti i dettagli della legge elettorale che trovate ovviamente, stanno facendo passo passo ogni giorno un passetto alla volta per cercare di trovare la quadra. Certo, ogni giorno si racconta che è molto più probabile il fatto di un voto al 24 di settembre. Questa almeno è la teoria che c'è sui giornali, sempre che l'accordo regga, ovviamente. In tutto questo c'è da dire che Berlusconi ha rilanciato non solo sull'accordo elettorale ma anche sull'accordo per la RAI. Questo racconta almeno Repubblica, pagina 4, Berlusconi chiede un patto anche sulla RAI, serve un direttore generale di garanzia. Questa è l'idea di Silvio Berlusconi che, dopo aver incassato il sì sulla legge elettorale, punta anche a una RAI, come dire, la sua immagine e somiglianza. Tra l'altro, su Berlusconi vi segnalo questo articolo curioso di Libero. Berlusconi ha cercato di brevettare il suo cognome. Cosa c'è di meglio, avrà pensato, che presentarsi con una lista Berlusconi. E allora ha fatto tutte le richieste attraverso i suoi avvocati. Questo lo racconta Franco Bechis su Libero, a pagina 10. Ha scoperto che sua nipote, la figlia di suo fratello Paolo, l'ha fregata. Ha già brevettato Berlusconi per fare un vino, il vino Berlusconi. Vabbè, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, la mia cara amica Eleonora Barbieri, eccola qua. Eleonora Barbieri intervista sul giornale per 2 pagine, non Chiara Ferragni, ma la mamma di Chiara Ferragni, quella che sarà la sposa di Fedez. Ma chi se ne frega!